i podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone. Errori di guerra al cinema. Il film senza errori non esiste. È un fatto incontrovertibile. Non esistono film senza qualche errore. Ma bisogna saper distinguere. Quelli presenti in produzioni ad alto budget sono imperdonabili, mentre quelli in piccole produzioni o nei B-movie degli anni 60 e 70, dove si faceva di necessità virtù, vengono guardati con benevolenza e magari strappano anche un sorriso. Molti gli esempi in entrambi i casi. Tra questi è indimenticabile il manichino metallico che si schianta sulle rocce de Non si sevizia un paperino di Lucio Fulci, così come le botti palesemente vuote e costruite di materiale leggerissimo che uccidono Mario Brega in Per un pugno di dollari di Sergio Leone. L'errore può essere di diversa natura: tecnico, ombre degli operatori riflesse sui muri; anacronistico, un modello di auto o un programma TV successivi all'epoca in cui si svolgono i fatti narrati; e di produzione, una pettinatura diversa in due scene sequenziali. È chiaro che con le nuove tecnologie molti di essi vengono eliminati in fase di post-produzione. L'errore, quando non evidentissimo, inganna l'occhio dello spettatore medio, ma non quello allenato del critico cinematografico o dell'appassionato che sa dove andare a cercare. Uno degli esempi più clamorosi riguarda uno dei film di maggior successo degli ultimi anni, Il Gladiatore di Ridley Scott, girato con un cast d'eccezione, un budget altissimo e vincitore di ben 5 premi Oscar, dove gli errori sono tantissimi. Quando la storia si svolge in Africa, appare un serpente corallo che vive negli stati meridionali degli USA e in Messico, zone ancora sconosciute all'epoca dei fatti. Nel film appare anche una balestra, arma inventata nel Medioevo. Poi ci sono gli errori storici, di cui il film è pieno, e ne citiamo uno su tutti. Si parla di Colosseo, ma all'epoca dei fatti la struttura si chiamava Anfiteatro Flavio. Il termine Colosseo è nato moltissimo tempo dopo. Addirittura la frase simbolo del film «Al mio segnale scatenate l'inferno» è anacronistica, visto che il concetto di inferno nella religione della Roma precristiana era sconosciuto. Lo stesso regista lo conferma quando deve rappresentare l'aldilà e lo fa immaginando i campi Elisi e non il paradiso. Di seguito ci divertiremo a segnalare gli errori più evidenti presenti nei war movie tra i più noti al grande pubblico. Berretti Verdi, John Wayne, USA 1968. Film di propaganda sulla guerra del Vietnam, diretto e interpretato da John Wayne. Nella pellicola spesso si vedono degli alberi di pino, vegetazione non proprio aderente all'ambientazione vietnamita. È stato girato in Georgia. Miracolo a Sant'Anna, Spike Lee, USA 2008. Film che racconta le vicende di soldati afroamericani e del rapporto di uno di loro con un bambino scampato all'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. La testa della statua marmorea, che dovrebbe essere pesantissima, ha un peso non congruo. Il soldato americano la trasporta per tutto il film appesa come un normale portachiavi. Durante il passaggio del fiume Serchio da parte delle truppe americane, la vegetazione è ben lontana dall'essere quella della piana di Lucca. Black Hawk Down, Ridley Scott, USA 2001. Lo stesso acclamato regista del Gladiatore anche questa volta scivola. Nella scena in cui viene ucciso il primo Ranger, il somalo che lo uccide impugna un modello di fucile. Quando esce dal muro per sparare ancora, il modello è diverso. Nelle scene girate nella base americana, spesso il sole è basso, come se fosse il tramonto o comunque il tardo pomeriggio, mentre nelle scene ambientate a Mogadiscio, che si svolgono in contemporanea, il sole è alto come se fosse mattina. Infine, quando un somalo prega sulla spiaggia, si vede il sole tramontare sul mare. In realtà, vista la posizione di Mogadiscio, dall'oceano indiano il sole dovrebbe sorgere. Il tutto è spiegato dal fatto che il film è girato in Marocco. Il cacciatore, Michael Cimino, USA 1978. Anche il capolavoro di Cimino non è esente da errori. Durante una festa, De Niro guarda Meryl Streep ballare mentre beve un bicchiere di birra che è quasi finito. Dopo lo stacco, il bicchiere è pieno. Nella scena della roulette russa nel campo di prigionia, nell'inquadratura su De Niro è giorno, mentre in quella del vietnamita è buio. Salvate il soldato Ryan, Steven Spielberg, USA 1998. Lo sbarco in Normandia raccontato da Spielberg. Durante lo sbarco, in particolare quando Tom Hanks toglie l'elmetto, il livello dell'acqua cambia ad ogni stacco. Inoltre i soldati che cercano Ryan sono in 8. Uno viene ucciso, ma nella scena successiva sono ancora in 8. Orizzonti di gloria, Stanley Kubrick, USA 1957. Anche un maniaco della precisione come il maestro Kubrick deve arrendersi a un minuscolo errore. Il reggimento comandato dal colonnello Dax è il 701esimo. Sulle uniformi di alcuni soldati leggiamo 710. Piccolo errore dei costumisti addetti alla sartoria. Operazione Valchiria, Bryan Singer, USA 2008. Il film descrive la preparazione dell'attentato a Hitler da parte di ufficiali tedeschi. Durante la scena del tentato colpo di Stato, molti ufficiali vestono il cappotto, ma l'azione si svolge il 20 luglio, in piena estate. Apocalypse Now, Francis Ford Coppola, USA 1979. Il regista di origini lucane adatta per il cinema Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Coppola riceve la Palma d'Oro a Cannes. Quando il capitano Willard discute per il carburante, la sigaretta che fuma appare e scompare. Mentre nella scena sul ponte illuminato, quando l'imbarcazione riparte, è preceduta da una scia d'acqua. Si tratta della scia lasciata dall'imbarcazione da dove si effettuano le riprese. Mediterraneo, Gabriele Salvatores, Italia, 1991. Al termine della campagna di Grecia, alcuni militari italiani giungono su una piccola isola dell'Egeo, premio Oscar come miglior film straniero. I soldati arrivano sull'isola a bordo di alcune imbarcazioni e fanno l'ultimo tratto a piedi in mare. Giunti sulla riva, i pantaloni sono asciutti. Poi, nelle scene finali del film, quando tagliano le melanzane, quella che ha in mano a Batantuono cambia di forma ogni inquadratura. Inoltre, il film è ambientato nell'arco di tempo 1941-1944, ma i militari cantano Il canto degli italiani, che divenne inno nazionale provvisorio solo nell'ottobre del 1946. Curiosità. Quel maledetto treno blindato, film di guerra del 1978 girato da Enzo Castellari, venne distribuito all'estero con il titolo The Inglorious Bastards, Bastardi senza gloria. È proprio a questo italianissimo film che Quentin Tarantino si è ispirato per il suo capolavoro del 2009. Infatti, se si fa attenzione, si noterà che il film di Tarantino nel titolo originale si chiama Inglorious Bastards, con la E al posto della A. Errore voluto proprio perché non si poteva dare lo stesso titolo di un altro film. Tarantino omaggia Enzo Castellari e i B-movie italiani anche in altri modi. Infatti il regista italiano partecipò alle riprese con un piccolo cameo, poi tagliato in fase di montaggio. Nella scena della prima al cinema conosciuta come scena degli italiani, Brad Pitt e soci, fingendosi italiani, si presentano con nomi ovviamente falsi, uno dei quali è Antonio Margheriti. Il regista Antonio Margheriti, noto anche con lo pseudonimo di Anthony Dawson, è stato uno dei maggiori esponenti del cinema di genere italiano degli anni 60, noto soprattutto per essere stato il fautore delle pellicole di fantascienza made in Italy. Inoltre il generale inglese si chiama Ed Fenech, chiaro omaggio a Edwige Fenech, interprete di tanti B-movie nostrani. I podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone.